Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili. Di Nanni Balestrini, parte undicesima. Improvvisamente una luce fortissima ci illumina di colpo. Avevano portato lì due grandi generatori a motore. È cominciato un ronzio assordante e hanno cominciato a proiettare dei fari enormi in direzione dei cortili. Loro stavano nell'ombra e tu eri completamente illuminato, con questa scena intorno di sangue dappertutto, di gente con le teste rotte, tutta quanta rotta, che si lamentava, e hanno cominciato questi, sempre mascherati nell'ombra, a picchiare con le sbarre e con i manganelli sulle reti dei cortili e a urlare: figli di puttana, froci, ve la faremo pagare a tutti, in ginocchio, chiedete perdono, bocchinari inculati. Questo qua è solo l'inizio, e questa è una cosa che ci faceva veramente terrorizzare. Cazzo, se questi veramente entrano e danno anche solamente ancora 10 botte a questi che sono qua per terra conciati così, basta, è finita. Hanno fatto tutto questo puttanaio, e intanto è successo che c'era un compagno dentro la mia aria che stava lì seduto, immobile. Io non ci ho parlato perché, essendo in piedi, aiutavo quelli che erano più conciati, e siccome l'avevo visto lì immobile, seduto, e apparentemente non aveva sangue né niente, ho pensato l'avrà scioccato la situazione, ma non ha niente. Quando poi le cose più gravi, i feriti, quelli pieni di sangue, si sono un po' rimediati, si è messa la gente seduta con le spalle al muro. Le cose minime, insomma. E io gli ho detto: «Oh, come stai?» Lui mi ha detto piano piano: «Mi sento qualcosa di rotto dentro». E in effetti questo aveva tutte le costole rotte. Poi l'hanno portato all'ospedale, durante la notte, perché rischiava di rimanerci. Non poteva fare il minimo movimento, che urlava dal male, con tutte le costole rotte. Aspettavo col mio compagno di cella, che nel momento della confusione, quando i carabinieri sono entrati, ci eravamo separati. Ero molto preoccupato perché lui era sceso al primo piano e io pensavo che sotto era successo un disastro, che c'erano i morti, perché quando arrivavano man mano i compagni io chiedevo a tutti: ma è morto qualcuno? E uno mi aveva risposto: credo più di uno. E allora io aspettavo questo mio compagno, e poi questo compagno l'ho visto sfilare e ho visto tutte quante le botte che gli hanno dato, gliene hanno date proprio tante. Poi è entrato nella mia stessa aria, è entrato in piedi continuando a saltellare senza staccare le mani da dietro la testa, aveva i guanti di lana, e gli ho detto: come stai? E lui ha detto: bene, però devo avere tutte le dita rotte. Allora gli ho sfilato più piano possibile i guanti, dito per dito, con questo che bestemmiava tutte le madonne, ma non li aveva rotti tutti, solo qualcuno. Dopo che le guardie hanno minacciato di entrare un'altra volta nei cortili dell'area, se ne sono andate. È calato un silenzio pauroso, nessuno parlava più con gli altri, e quella è stata una cosa alla quale poi ho ripensato. Perché tutti quanti in quel momento, secondo me, pensavano che era inutile parlare, dire qualsiasi cosa. C'è stato un momento in cui tutti sono rimasti immobili, lì, così come si trovavano, come statue pietrificati, sotto la luce fortissima dei generatori, e si sentiva solo il rumore dei generatori. Poi è tornato il fracasso. Le guardie erano salite nei piani e stavano spaccando tutto. Hanno devastato tutto, hanno distrutto tutto, fracassando tutto e devastando tutto. Quello che c'era lì. Urlavano come dannati e si sfogavano sulla nostra roba che stava nelle celle. Hanno preso le televisioni e le hanno scaramentate per terra, hanno preso tutti gli oggetti, tutte le scatole, tutte le bottiglie e le hanno fatte a pezzi e calpestate. Hanno spaccato sgabelli e tavoli, hanno spaccato tutto, hanno stracciato i libri, hanno preso i vestiti e li hanno strappati e li hanno buttati per terra e ci hanno pisciato sopra, hanno divelto i caloriferi, è uscita l'acqua e hanno inondato tutto il piano, hanno distrutto tutto, il carcere, l'hanno reso inutilizzabile. Loro l'hanno distrutto, non noi. Per mezz'ora si sono sfogati contro le nostre cose, contro il carcere, gridando, urlando, erano impazziti, poi si sono calmati, anche perché probabilmente erano arrivate le notizie. Le guardie sequestrate avevano detto come erano andate le cose, che non erano state ferite dai prigionieri, che a ferirle erano stati i carabinieri. Mentre quelli sfasciavano il carcere, la gente si era un po' tranquillizzata, perché fin tanto che sfasciavano le cose, voleva dire che non venivano da noi. Poi si è capito che il peggio era passato quando le guardie sono tornate giù e non erano più mascherate, non avevano più i passamontagna. E allora lì si è capito che questi non avrebbero picchiato più, perché avevano la faccia scoperta, e i brigadieri hanno cominciato a dire «chi sta male lo portiamo all'ospedale». Però nessuno voleva uscire dai cortili, perché non si fidava, neanche quelli che stavano peggio, neanche quelli che proprio stavano male e avevano le ossa rotte. E allora i brigadieri hanno cominciato a dare rassicurazioni. No, non vi facciamo niente, vi portiamo all'ospedale e quelli che stanno meno male li portiamo qua in infermeria. Allora c'era un compagno che stava particolarmente male, perché gli avevano dato un colpo nella gola e non riusciva più a respirare. Questo qua sveniva continuamente, rantolava, sembrava che soffocava. Allora a turno bisognava mettergli le dita, perché a questo qua gli si attorcigliava indietro la lingua e gli andava giù in gola. Non respirava più e diventava scianotico, rischiava di soffocare. Allora bisognava tenerlo su con la schiena, contro il muro, e mettergli le dita, io e un altro compagno. Lo sfasciavamo a turno, gli mettevamo a turno le dita in gola, gli prendevamo con le dita la lingua cercando di schiacciargli la lingua giù per di tenerla ferma, per fargli passare un po' d'aria nella gola. Ma era difficile perché questo non stava fermo con la testa. È andata avanti per un'ora così e questo diceva con un filo di voce quando riuscivamo a farlo respirare un po' a forza. Non voglio andare all'ospedale perché ho sentito dire una guardia che mi picchiava che mi vogliono ammazzare. Allora cercavamo di rassicurarlo perché lì così rischiava di morire veramente. Intanto altri compagni hanno cominciato a uscire per farsi portare all'ospedale. Poi è stata una sfilata per tutta la notte di gente che andava all'ospedale o in infermeria e a quelli che avevano le ossa rotte gli hanno fatto le ingessature. A quelli che avevano i tagli li hanno cusciti, gli hanno dato i punti, eccetera. Ma questo che non respirava era ancora lì, a metà della notte, che non voleva uscire e si pensava che moriva. Poi, verso le 4, le 5 del mattino, ci siamo decisi e lo abbiamo accompagnato al cancello perché proprio non poteva più rimanere lì così. Da quel momento che hanno cominciato a portare la gente all'ospedale in infermeria, le guardie non hanno più minacciato, né fatto niente. È passato questa notte, freddissima, forse era la notte di Natale, non mi ricordo. Adesso figuriamoci se gli importava qualcosa lì a qualcuno del Natale. Faceva un freddo sotto zero e non avevamo niente. All'alba sono arrivate delle guardie con il latte, incredibile, con il pane e il latte caldo e le coperte. La gente era ancora lì, tutta dolorante, ma era già ingessata. Era passata la paura. Allora sono cominciate le prime voci. La gente ha cominciato a parlarsi, dentro ogni aria, e poi sono cominciate le prime voci che rimbalzavano da aria a aria, perché c'erano i muri divisori e non ci si vedeva. Come sta quello, come sta l'altro? Eravamo contenti che non era morto nessuno. E poi la cosa principale era che ora non ci picchiavano più. Per tutta la giornata siamo rimasti tutti distesi per terra, su queste coperte, perché venivano fuori tutti i dolori, i lividi e le botte. A mezzogiorno ci hanno portato delle salsicce, delle cose cotte, dell'altro pane. Poi è calato ancora il buio. e quella notte era splendida perché era serenissimo il cielo e c'erano tantissime stelle, l'aria era freddissima e poi pian piano hanno cominciato a farci uscire uno alla volta dai cortili e ci hanno portato nelle celle del pian terreno dove c'erano i lavoranti. Avevano sgomberato tutto dalle celle, avevano tolto tutto e avevano lasciato solo i letti. Il pian terreno non era stato coinvolto nella rivolta. Sopra non potevano metterci perché tutto era stato distrutto. E allora hanno preso i lavoranti e li hanno messi da un'altra parte, provvisoriamente. Hanno tolto tutto nelle celle. Hanno tolto gli armadietti, i tavoli, gli sgabelli. Qualsiasi cosa, nelle celle non c'era più niente, c'erano solo le brande fissate per terra e i soliti materassi di gomma piuma che erano dei semplici pezzi di gomma piuma. E basta, e hanno cominciato a uno a farci uscire e ci sistemavano a gruppi in queste celle. A me mi hanno messo in un cameroncino con 5 letti, eravamo in 10 e una volta sdraiati tutti non c'era più spazio per camminare e eravamo lì. Così, in 10, senza niente, con delle coperte, con gli stessi vestiti perché mica potevamo cambiarci, la nostra roba era su, nel piano distrutto, avevamo ancora addosso gli stessi vestiti, sporchi di sangue, strappati, sporchi, e lì dentro siamo rimasti in queste condizioni per 3 settimane. Era una bellissima giornata e non faceva freddo nel cortile della questura. C'era un grande via vai di gente in uniforme e in civile, macchine bianche e celesti che entravano e che uscivano velocissime. Mi hanno fatto salire su una macchina civile, io dietro con vicino quello che portava la mia borsetta. L'altro, giovane, guidava e quello più anziano, con l'aria di un buon padre di famiglia, vicino a lui. Siamo partiti e appena fuori mi sono guardato nello specchietto retrovisore. Avevo una faccia spaventosa, gli occhi gonfi e rossi, i capelli aggrovigliati e dritti, le mani nere con cui non mi potevo nemmeno toccare, ma soprattutto mi sembrava di avere sulla pelle, sui vestiti, sui capelli, dappertutto uno strato di unto sporco e viscido, come quello delle guardie in quella fogna, giù da dove venivo. Adesso sto andando in carcere. Penso che cos'è il carcere, non ne so niente di preciso. Cerco di scavare nella memoria quel poco che avevo letto sui fogli del movimento o i racconti che avevo sentito di quelli che c'erano stati, ma non saltava fuori molto per farmi immaginare che cosa mi aspettava. Arriviamo a un semaforo rosso. L'autista frena, di fianco alla macchina vedo dal finestrino c'è una ragazza su una bicicletta, un piede su un pedale e l'altro appoggiato per terra. Mi piacerebbe anche a me adesso andare in giro in bicicletta. Se mi veniva in mente ieri non me ne sarebbe fregato niente. Avrei pensato che andare in bicicletta è una cosa che non dà nessun piacere particolare. È una faticaccia in più e per niente. Adesso invece mi sembrava una cosa bellissima. Poi scatta il verde e l'auto fila via dritta, mentre la ragazza è ancora lì ferma con un piede sul pedale e l'altro appoggiato per terra. Avrei voglia di girarmi, ma non lo faccio. Sono lì, in mezzo a dei poliziotti, e il mio ruolo è quello di uno che sta andando in galera. Mica posso girarmi a guardare le ragazze che vanno in bicicletta. Quello più anziano si gira e con un tono paterno mi chiede se è la prima volta che vado dentro. «Sì», gli rispondo, «io». E lui fa una faccia dispiaciuta e mi chiede la mia età. «Sei giovane, è una brutta esperienza», e scuote la testa. «Sono sempre così, quelli più vecchi, quelli più giovani sono duri, stanno zitti, non ti dicono niente, se ti parlano è solo per darti degli ordini. Si indovina il disprezzo e l'odio, ma anche i vecchi, tutti, sono la stessa cosa». Sono tutti uguali nella sostanza, fanno tutti le stesse cose, lo stesso mestiere. Il mio ruolo è quello di uno che sta andando in galera. Adesso pensavo ai compagni e questo mi consolava perché pensavo che adesso tutti si saranno mobilitati, si stavano dando da fare per me, non mi avrebbero lasciato solo e ero orgoglioso del fatto che avevo tutti questi compagni, questa grande famiglia che si prendeva a carico la mia situazione, i miei problemi, che avrebbe pensato a tutto l'avvocato, i soldi e tutte le altre cose che adesso non mi immaginavo. Sentivo che non ero solo, facevo parte di una forza collettiva e questo mi dava una grande forza. Avrei sopportato con fierezza tutto quello a cui stavo andando incontro e pensavo che adesso dovevo comportarmi come sotto gli occhi dei compagni. Non ero solo, c'erano loro con me, sempre presenti sulla scena. Arriviamo al carcere. L'auto costeggia per un pezzo il muro di cinta, con le torrette per le guardie. Poi si ferma davanti a un grande portone chiuso. Davanti c'è ferma una volante e intorno ci sono quattro poliziotti in uniforme con i mitra imbracciati e i giubbotti antiproiettile che si guardano intorno, tesi, e guardano dentro le macchine che passano lente a passo d'uomo. Il portone si socchiude e spunta fuori per metà un uniforme grigia, anche questo col giubbotto antiproiettile e il mitra in mano, la canna un po' alzata. Verso l'alto. Quello più anziano della mia scorta scende, va verso di lui, gli parla e gli passa dei fogli di carta. L'uniforme grigia li prende, li osserva un attimo, poi rientra nel portone e il portone si richiude. Dopo un po' il portone si riapre, quanto basta per lasciar passare la nostra auto, che si ferma davanti a un secondo portone. Mentre il primo portone si richiude, dentro è buio. Nell'atrio ci sono solo le luci di due lampade fioche, sulla destra. C'è una guardiola, chiusa, da vetri antiproiettile, con dentro altre uniformi grigie, armate. I poliziotti della scorta scendono e consegnano le loro pistole, poi risalgono, mentre io non mi muovo dal sedile posteriore. Il secondo portone si apre e l'auto si avvia lentamente per una stradina asfaltata, 30-40 metri, e si ferma, di nuovo. Scendiamo tutti. Un altro grigio ci apre un cancello che dà su un corridoio, lungo, stretto. Altra guardia, altro cancello, altro corridoio. Poi a sinistra una porta con scritto ufficio matricola. Entriamo in uno stanzone pieno di scaffali, pieno di registri accatastati alla rinfusa e di tavolacci di formica verde tutti screpolati e di uniformi grigie che sembrano lavorare come impiegati tra le carte sparse dappertutto. C'è un bancone alto che divide la stanza in due per tutta la lunghezza. Nella scorta mi tolgono le manette, parlano in fretta con quello che sembra essere il capufficio, gli consegnano delle carte e la mia borsetta e se ne vanno senza neanche guardarmi. Il capufficio mi fa segno di sedermi su una panca e riprende il lavoro che stava facendo quando siamo entrati. Prende un mucchio di carte da un tavolo e le trasporta su un altro tavolo, poi prende un altro mucchio di carte da un altro tavolo e lo trasporta nel primo tavolo, ma non sembra soddisfatto e riporta tutto come prima, scuotendo la testa. Dopo un po' mi fa segna di venire lì al bancone. Tira fuori un grosso registro e un tampone e mi riprende le impronte digitali. Le mie mani si sporcano ancora di inchiostro, sono ormai completamente nere. Io ormai so come si fa e cerco di premere da solo le dita sul foglio perché mi dà fastidio che quello prenda le mie mani fra le sue. Ma quello lo fa lo stesso, evidentemente perché è abituato a farlo. Poi mi chiede anche lui le generalità, le scrive sotto le impronte e ci aggiunge l'imputazione e posso leggere associazione sovversiva, banda armata e detenzione di armi. Poi mi misura l'altezza con un trabiccolo come quelli che si usano durante la visita militare e scrive anche quello sul registro e lo mette via. Alla fine mi fa consegnare il portafoglio con i soldi e la carta d'identità, mi fa consegnare l'orologio e la cintura e tutte le cose che avevo in tasca, l'accendino e le chiavi, e le mette sul bancone vicino alla borsetta. Chiama due guardie e dice portatelo alle celle, questo è in isolamento giudiziario. Non ti chiamano per nome qua, tra loro le guardie ti chiamano sempre questo. E io vado con le due guardie, superiamo moltissimi cancelli, dove a ognuno c'è sempre una guardia che apre e che chiude nei corridoi, incrociamo altre guardie che passano sole o a gruppi o scortano dei detenuti. A un certo punto arriviamo davanti a una porticina con una guardia. ci apre e scendiamo la scala che portano all'interrato, dove si trovano le celle di isolamento. In fondo alle scale c'è una porticina che ci viene aperta dall'interno. C'è un lungo corridoio, lungo 30-40 metri, e su ciascun lato del corridoio, ogni 2-3 metri, c'è una porta metallica, grigia, chiusa con uno spioncino chiuso, e in fondo al corridoio c'è una parete senza finestre, con una piccola porta chiusa, tutto illuminato da lampade al neon. Le due guardie che mi accompagnano si rivolgono a una delle guardie che sta nel corridoio, chiamandola capoposto. Il capoposto ha attaccato alla cintura un grosso mazzo di chiavi, ne prende una e apre la porta blindata della cella numero 27. Poi, con la stessa chiave, apre un cancello che sta dietro la porta blindata. Prima di farmi entrare, una delle guardie che mi scortava appiccica sul muro di fianco alla porta un cartoncino con su il mio nome e cognome e numero di matricola, un numero di 5 cifre. Poi mi fanno segno di entrare. Io entro, loro entrano dietro di me e mi dicono ancora una volta di spogliarmi nudo. Io mi spoglio nudo un'altra volta e questi mi fanno da capo una nuova perquisizione, controllando bene tutti gli indumenti dove non c'è ormai più niente. Poi escono, il capoposto chiude il cancello, fa girare la chiave nella toppa, poi fa due passi indietro e spinge la porta. E la porta si chiude con uno scatto secco. Sento la chiave che gira e mi ritrovo lì in piedi, nudo, con le mani tutte nere, nella cella di isolamento numero 27. Libri ribelli. Libri ribelli.